sì che l'ucciderò, ucciderò, ucciderò, sì che l'ucciderò. Venite pur fuori ed over non è il mio cor. Venite pur fuori ed over non è il mio cor. A prestarmi il furor, a lacerar con me, vieni pur re, vieni pur re. A lacerar con me, vieni pur re, vieni pur re. Che della patria scherno, che della patria scherno, la destra, la destra, la destra iniquarà. Ucciderò, ucciderò, sì che l'ucciderò.